Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va? Bentornati dunque a Fumetti Sinistri, un mondo dentro il balloon che si interroga su quanta sia ancora la validità educativa di quei principi giovanili dell'istruzione, delle conoscenze tecnico-scientifiche, dei racconti, dei fumetti che negli anni 50 maturarono all'interno del Pioniere. Beh, sembra che dei frutti di allora maturino ancora oggi, se andiamo a vedere quello che è successo nella scuola artistica di Busto Arsizio, dove appunto prendo spunto dal Pioniere, si è dato atto e modo ai ragazzi di aggiornare quei racconti, in particolare sulla Resistenza, che sembravano in qualche modo chiusi nel loro tempo e invece tornano a essere di estrema attualità. Su questo inizia la nostra trasmissione, andando appunto al racconto di questa esperienza che si è snodato nella radio interna, una radio online interna all'istituto stesso. Buonasera, sono Stefania Cattaneo, insegno discipline pittoriche al liceo artistico di Busto Arsizio. Vorrei presentarvi il progetto dal titolo Gianni Rodari e il Pioniere, le nostre riflessioni, a cui abbiamo lavorato con i ragazzi della classe 4 SF dell'indirizzo figurativo. Inizierei col dire da cosa nasce questo progetto. Nasce dall'entusiasmo di Carlo Chinetti dell'Ampi di Gallarate, che ci ha cercati e fortunatamente trovati al liceo. Chinetti ci ha proposto di partecipare ad un convegno che si è svolto a Fondo Toce il 23 novembre del 2019 e dal quale sono intervenuti Maria Grazia Ferraris, che ha proposto alcuni brani tratti dal suo ultimo libro Vado via coi gatti, la voce multiforme e multisonante di Gianni Rodari. Altri interventi molto interessanti sono stati quelli di Carlo Zaia proprio sul Pioniere, quello di Alfredo Pasquali su Gianni Rodari come partigiano che aveva partecipato alla Resistenza ed infine l'intervento di Diamanti sui corsivi di Benelux. Durante il convegno, tra un intervento e l'altro, pensavo: wow, questo è un mondo, quello di Rodari, ancora tutto da scoprire. Devo dire che quella mattina, quel sabato mattina, affrontando le intemperie, io, la professoressa Muzzetu e i ragazzi di Quarta SF che hanno partecipato alla conferenza con noi, ci siamo resi conto di aver vissuto una grande esperienza che ci ha fatto intravedere Gianni Rodari sotto diversi punti di vista, molto densa e ricchissima di spunti su cui ipotizzare un progetto. Nei giorni seguenti, rileggendo i miei appunti e facendo ulteriori ricerche, ho deciso che il perno del nostro progetto sarebbe stato il Pioniere. Ma che cos'è il Pioniere? Questa pubblicazione a fumetti fu promossa dall'Associazione Pionieri Italiani, attiva dal 1950 al 1974. Ma ciò che ha creato davvero un forte interesse in me è stato proprio capire che l'obiettivo di questo inserto era quello di rieducare una società dopo un ventennio fascista. Diventava quindi necessario contrastare i tormentoni dei fumetti fascisti che inneggiavano all'antisemitismo e al razzismo. Ecco che il Pioniere nasce in contrapposizione ai vecchi stereotipi per sradicare quella cultura popolare fascista di cui la società dell'epoca era ancora intrisa. Avvicinandosi al Pioniere si percepisce una grande forza travolgente, ciò che ti convince a non restare fermo passivamente, ad osservare l'odio e la violenza che ti succede intorno come se fossero qualcosa che sta succedendo lontano da noi. I ragazzi sono stati invitati ad entrare nel vasto mondo del Pioniere e a scegliere alcune storie per farne poi una rilettura in un nuovo contesto, quella della nostra società contemporanea. Un lavoro molto complesso e faticoso, sia a livello concettuale che a livello tecnico. Nel progetto iniziale era prevista una collaborazione con Andrea Pirro, esperto di grafica d'arte, grazie al quale avremmo potuto realizzare un definitivo con le tecniche calcografiche. Purtroppo la pandemia che ci ha colpiti ci ha impedito di realizzare questa parte del progetto, ma non ci siamo arresi e abbiamo proseguito. I ragazzi hanno realizzato i definitivi utilizzando una tecnica a loro scelta. Durante il nostro viaggio all'interno del Pioniere spesso ci siamo persi nella storia, ma anche riallacciati poi al nostro tempo, e abbiamo rivisto Mario, il figlio dell'emigrato, Sally, dei ragazzi negri, non più come personaggi di un fumetto, ma come persone reali, incarnatesi nel nostro vicino di casa o nel nostro compagno di classe. Abbiamo dovuto riflettere a lungo e considerare che il grande lavoro che è stato realizzato nel Pioniere purtroppo avrebbe senso di esistere ancora oggi. Oggi come ieri è necessario fermarsi a riflettere per poi agire e continuare a creare quel messaggio educativo carico di forza generatrice che ci è stato lasciato dagli autori del Pioniere. Buonasera a tutti, sono Cattaneo Stefania e sono docente di discipline pittoriche al liceo artistico. In questa puntata tornerei per un attimo al progetto Gianni Rodari e il Pioniere e le nostre riflessioni. Il percorso proposto ai ragazzi ha avuto diversi obiettivi: quello di fargli conoscere una parte fondamentale della nostra storia, di avvicinarli ad un autore importante e complesso come Gianni Rodari, ma anche quello di analizzare il linguaggio del fumetto per poi fare delle riflessioni ed elaborare alcuni messaggi attraverso la propria creatività. Ma spesso quando chiedo ai miei studenti di mettere in campo la loro creatività per sviluppare un progetto, incontrano delle difficoltà. Forse semplicemente horror vacui, la famosa paura del foglio bianco, o forse abbiamo la convinzione, spesso un po' arcaica, che i processi creativi debbano essere innati e quindi manifestarsi attraverso impulsi fisiologici naturali. Gianni Rodari è un vero e proprio mondo da scoprire, un mondo che non si ferma alla letteratura, ai racconti per bambini o all'impegno politico, ma prosegue fino ad indagare le metodologie educative, i processi della fantasia e delle regole della creazione per renderne l'uso accessibile a tutti. Nella grammatica della fantasia, infatti, Gianni Rodari offre materia prima, idee, occasioni di riflessioni fantastiche utili per superare la muraglia della routine scolastica e per riconoscere il ruolo della creatività all'interno del processo educativo. In questa direzione ho incontrato una meravigliosa iniziativa sul web proposta dal Comitato Promotore per le Celebrazioni dell'Anno Rodariano, istituito da Biblioteche di Roma in occasione del centenario dalla nascita del grande scrittore. La mostra dal titolo Tramunari e Rodari attende di essere aperta finalmente al pubblico al piano zero del Palazzo delle Esposizioni a Roma. Tra Munari e Rodari è anche un libro dedicato alla mostra edito da Corraini e scaricabile dal sito, sul quale è possibile ascoltare il video di presentazione della studiosa Vanessa Roghi, storica e autrice della biografia di Gianni Rodari, quindi una meravigliosa occasione da non perdere. Questi 10 pannelli raccontano con poesia e immediatezza i punti di contatto tra i due artisti, un binomio fantastico da cui è sprigionato il piacere dell'invenzione, della fantasia, della creatività, che fa di Rodari e Munari personaggi unici del panorama artistico del Novecento italiano. Promotori, infatti, di metodologie didattiche fondate sul gioco e l'inventiva, Bruno Munari e Gianni Rodari sono una delle coppie creative più famose e ammirate di sempre. Diverse sinergie legano Rodari e Munari. Come ci suggerisce Laura Panizza, entrambi attenti al mondo dell'infanzia e alla necessità di fornire ai lettori, con parole e con le immagini, una nuova e diversa sensibilità nel guardare le cose. Come per Rodari la scrittura è testimonianza di libertà, così per Munari il segno è invenzione efficace, libera e irriverente nei confronti delle convenzioni. L'accostamento, anche casuale, di forme o parole fa volare lontani con l'immaginazione, e se tutto può essere proposto sotto forma di gioco, la creatività nell'impiego delle parole di Rodari e delle immagini per Munari non è fine a se stessa, ma svolge un ruolo fondamentale nello sviluppo autonomo del pensiero. Come scriveva Rodari nella Grammatica della Fantasia, tutti gli usi della parola a tutti. Mi sembra un buon motto, dal bel suono democratico, non perché tutti siano artisti, ma perché nessuno sia schiavo. E questi sono alcuni tratti della trasmissione della radio online interna dell'Istituto Artistico di Ustarsizio sulla riutilizzazione del pioniere, materiali antichi ma concetti ancora molto moderni. E continuiamo a parlare comunque di resistenza, perché in occasione del 25 aprile, in questo grande lockdown che ci ha tutti coinvolti, in realtà la nostra radio ha continuato a produrre. E allora in occasione del 25 aprile, lockdown profondo, ma grande esigenza di in questo momento ribadire i termini della lotta partigiana, dei valori della Costituzione, la nostra redazione di Balloon ha fatto una ricerca indagando sui fumetti e la resistenza. Sentiamo i risultati di questa ricerca. La redazione di Vallun, come al solito, vi propone qualche piccola bibliografia per i grandi anniversari, e per questo 75esimo anniversario della Liberazione che ci tocca passare a casa, una bibliografia ci sembrava particolarmente azzeccata. Per renderla speciale abbiamo deciso però di andare a indagare la maniera con cui il mondo del fumetto ha raccontato l'esperienza della Resistenza. Ed è un'occasione importante perché ci permette di fare i conti con la maniera con cui il fumetto, per l'appunto, ha affrontato le tematiche storiche. La storia è un elemento ricorrente nel mondo del fumetto, però se dovessimo fare calcolo anche solo numerico, vedremo come la Resistenza purtroppo non sia stata una delle tematiche molto battute. Il racconto a fumetti della Resistenza ha conosciuto una stagione di grande esplosione negli anni 50, soprattutto all'interno della pubblicistica per ragazzi di sinistra. La rivista Il Pioniere, di cui sulle nostre frequenze spesso si è parlato e di cui potete trovare traccia sul nostro sito, è molto evidente. Ci sono stati all'interno della rivista Il Pioniere, in particolare, che era la rivista del Partito Comunista per Ragazzi, un'esplosione di interesse nei confronti della Resistenza, in quanto narrazione di una nuova Italia che veniva fatta dalle organizzazioni della sinistra, ma successivamente questo interesse ha iniziato un po' a scemare e di fatto i fumetti che parlano di Resistenza non sono tantissimi. Noi abbiamo costruito un percorso di libri che si possono leggere in questa occasione, ma abbiamo dovuto fare una scelta. Abbiamo evitato le raccolte di autori di brevi storie di autori diversi, perché ci sembravano che riuscissero a meno a entrare nello spirito della narrazione della Resistenza, in quanto molto spesso queste raccolte, se hanno dei bei nomi di disegnatori, tendono ad andare su un tono un po' didascalico e retorico, per cui abbiamo scelto di affrontare delle narrazioni fatte da degli autori che in maniera un po' più compiuta ragionavano sulla Resistenza. È stato un po' difficile, ma ci siamo riusciti. Il nostro punto di partenza è stato Ugo Pratt, il grande autore di Corto Maltese, celebre personaggio del fumetto. Ugo Pratt si è dedicato molto alla narrazione della Seconda Guerra Mondiale, esperienza in cui nella sua maniera particolare ha preso anche parte, ma soprattutto Pratt, negli anni in cui è stato in Argentina, si è fatto le ossa come disegnatore proprio raccontando la Seconda Guerra Mondiale. Insieme allo sceneggiatore poi desaparecido Hector Hochstered ha realizzato il personaggio di Ernie Pike, il reporter di guerra che racconta in brevi storie la Seconda Guerra Mondiale, soprattutto dal fronte degli alleati, ma non solo. Personaggio che è stato ispirato al cronista realmente esistente Ernie Pyle. Nel fumetto prende le fattezze dello sceneggiatore Hochstered. In queste storie non si parla esplicitamente di Resistenza, si parlano di tante avventure che si sviluppano nel corso della lotta al nazifascismo, nel corso della guerra, ma ci è sembrato utile citarlo perché racconta quello spirito di partecipazione con i vari drammi, le grandi tragedie e i grandi atti di eroismo che ha costituito un momento fondamentale nella nostra liberazione. Uno dei fronti che viene raccontato in queste storie è naturalmente quello italiano. Oltre alle storie di Ernie Pike, vi suggeriamo di Ugo Pratt anche le avventure di un altro grande personaggio di Ugo Pratt, che è il capitano Koiski, il capitano del gruppo degli Scorpioni del Deserto, che in Africa combatte la Seconda Guerra Mondiale scontrandosi con fascisti, con francesi di Vichy, con soldati tedeschi, arricchendo il racconto di guerra con l'esperienza umana naturalmente. E in più di Ugo Pratt vi suggeriamo una storia che potrete trovare nella serie Koiski racconta due o tre cose che so di loro, in cui vengono raccolte alcune storie di guerra disegnate da Ugo Pratt, per andare a prendere una storia in particolare che è ambientata a Ravenna, che è una storia molto bella, questa veramente dedicata alla Resistenza, che è stata realizzata per il centenario del Partito Socialista. Anche questa storia la trovate per l'appunto nella serie Koiski racconta due o tre cose che so di loro, tutti i libri che vengono editi dalla Lì. Flora, ai parassiti macerati al calore. E regalami un sogno di ventre e violenza come eroe di carta, sai che gli spari d'inchiostro non piangono morti ma portano guai. Parlando sempre di storie di soldati in divisa che combattono il fascismo, ne andiamo a prendere una un po' più particolare, spostandoci dall'Italia, ed è una storia di Paco Roca, un fumettista spagnolo che viene pubblicato dalla Tunue in Italia. La storia a cui facciamo riferimento è I solchi del destino, e ci è sembrata interessante inserirla perché in questo libro viene raccontata la storia della Nueve, il battaglione di antifascisti spagnoli reduci dalla guerra di Spagna, che finiscono a combattere nelle file dell'esercito francese, liberano Parigi nella speranza che poi gli alleati si dirigessero verso la Spagna, una speranza delusa, ma è una storia di grande antifascismo e di racconto di una resistenza che travalica i confini, perché l'antifascismo è stata un'esperienza transnazionale, costruita da persone di diversa provenienza, non solo della singola nazione. Tornando in Italia invece, andiamo a prendere il libro che meglio di tutti racconta l'esperienza della resistenza, è un libro del 2013 di Roberto Baldazzini, fumettista di Vignola, noto soprattutto per le sue narrazioni di genere noir e per i fumetti erotici che ha realizzato per la rivista Blu, che decide, a carriera ampiamente avanzata, di confrontarsi con la resistenza realizzando Le quattro stagioni della resistenza, L'inverno di Diego, edito da The Box. Un fumetto bellissimo in cui si racconta la difficoltà della scelta di un ragazzo figlio di un gerarca fascista che decide di prendere la via della montagna combattendo con i partigiani, una storia drammatica come lo è stata la nostra guerra civile, in cui l'avventura di Diego si sviluppa su dei bellissimi panorami realizzati da Baldazzini dell'Appennino Emiliano innevato. Sempre rimanendo in Italia, vi suggerisco anche un altro libro molto particolare a cui non pensavo da molto tempo, ma che coglie la narrazione della resistenza in maniera molto adeguata, è I figli della schifosa di Alberto Pagliaro, edito da BD. Pagliaro è un disegnatore che lavora molto in Francia, che però dal 2008 al 2011 ha realizzato per la rivista satirica di Livorno Il Vernacoliere delle storie brevi, generalmente di una tavola, dedicate alla resistenza. Un libro veramente molto bello, perché in queste storie brevi, cui dominano toni diversi, dal tragico all'ironico a quelli molto delicati, viene raccontato che cos'è stato la resistenza, che cos'è stata la guerra civile che abbiamo vissuto in Italia, e queste storie comunicano un vero amore, una vera dedizione alla memoria della resistenza, un sincero legame che Pagliaro ha dimostrato con la resistenza. Veniamo poi a due autori locali, che sono Marina Girardi e Loco Lombardi, due fumettisti dallo stile molto diverso fra di loro, che però viene accomunato da una bellissima maniera di raccontare il contatto con la natura e raccontare il mondo animale. Due autori che assieme realizzano L'Argine, questo fumetto a quattro mani che è stato pubblicato da Becco Giallo, in cui si raccontano le avventure di Fraschi, un ragazzino che deve portare la sua capra ad essere gravidata, come abitudine del mondo di campagna, nello scenario di Cotignola, il paese della provincia di Ravenna che per il passaggio della linea gotica è stato completamente raso al suolo. Un libro molto bello che, con la delicatezza di un racconto di bambini, racconta racconta anche una realtà con una bellissima combinazione fra lo stile acquerellato e le matite di Marina Girardi e le incisioni più graffianti di Rocco Lombardi. Un libro che è graficamente straordinario, ma è anche narrativamente molto valido. L'ultimo suggerimento che vi diamo è un libro magari un po' didascalico, però che vale la pena perché racconta la memoria della Resistenza. Il fucile e la rosa, episodi della Resistenza marchigiana, un libro realizzato da Sergio Staino, che è il disegnatore di Bobo, il personaggio chiave delle vignette dell'Unità di una volta, e Gianni Carino. Dicevo, un libro un po' didascalico, ma che è molto bello perché racconta la vicenda del partigiano e scrittore anconetano Vilfredo Caimmi, personaggio che divenne noto in tutta Italia perché nel 1990, nel suo sottoscala, venne trovato un deposito di armi oramai inutilizzate, che però erano un arsenale, che però rappresentavano per Caimmi un bagaglio di ricordi di un'esperienza fondamentale come quella della Resistenza, che andò poi a formare un museo. Ciao, esta mañana me he levantado y he descubierto al invasor. Oh partigiano, me voy contigo. Oh bella, ciao, ciao, partigiano, me voy contigo porque me siento aquí morir. Y si yo caigo en la guerrilla, oh bella, chao, chao, si yo caigo en la guerrilla, te dejaré mi fusil. Cava una fosa en la montaña, oh bella, chao, cava una fosa en la montaña a la sombra de una flor. Así la gente cuando la vea, oh bella, chao, chao, chao, chao. Así la gente cuando la vea gritará revolución. Esta es la historia de un guerrillero. Bella, chao, chao. Es la historia de un guerrillero muerto por la libertad. He puesto el fiore del partigiano. Oh, bella, chao, chao. Puesto el fiore del partigiano muerto per la libertad. E questo è il fiore del partigiano muerto por la libertad. Esta es la historia de un guerrillero muerto por la libertad. Siamo dunque arrivati alla fine di questa puntata, ci rimane solo da salutarvi e ricordarvi che per ascoltare l'intera trasmissione l'indirizzo è o www.ilpioniere.org oppure www.radiocittafujiko.it. Ciao a tutti e risentirci.